larve e un lupo feroce che uomini e bestie straziava, e di affrontarlo nessuno più ardiva. Di quella gente Francesco ebbe pena, della loro umana paura. Prese il cammino cercando il luogo dove il lupo viveva, ed arma con sé lui non portava. Quando alla fine il lupo trovò, quello incontro si fece minaccioso. Francesco lo fermò e levando la mano: tu, frate lupo, sei ladro e assassino. Su questa terra portasti paura. Fra te e questa gente io metterò pace, il male sarà perdonato, da loro per sempre avrai cibo e mai più nella vita avrai fame. Che più del lupo fa l'inferno paura. All'inferno paura. Raccontano che così Francesco parlò e su quella terra mise pace, e negli anni a venire più nessuno patì. Tu, frate lupo, sei ladro e assassino, ma più del lupo fa l'inferno